facendo la vola roba del fidanzamento. Vado a lavarmi, vado a cambiarmi alla finestra per innamorarmi. Passò un ragazzo in abito bianco, cappello al lato, il mio fidanzato. Lo feci entrar e poi seder, sputò per terra. Pulisci tutto sporcaccione, avvi più educazione. Pulisci tutto sporcaccione, avvi più educazione. Colombina bianca, che stai facendo? Fidanzato, lo feci entrare e poi seder, sputò per terra. Pulisci tutto sporcaccione, avvi più educazione. Pulisci tutto sporcaccione.